Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Inchiesta su un riciclaggio da 2 miliardi di euro, disposto all'arresto per l'ex amministratore delegato di Fastweb Scaglia. La corruzione si combatte con le riforme, dice Montezemolo, replica Brunetta, le abbiamo già fatte. L'Italia è influenzata da altri paesi, dice l'Iran, Ahmadinejad torna ad attaccare Israele. L'Italia del calcio discute su Mourinho, giusta una pena così per il gesto delle manette, tra poco il pro e il contro. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque la maxi operazione contro il riciclaggio. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Di Michele, che ha seguito in procura a Roma la conferenza stampa. Chiara. Sì, un maxi riciclaggio, denaro sporco, per un ammontare complessivo di circa 2 miliardi di euro, è stato scoperto dai carabinieri del ROS e dalla Guardia di Finanza. Sono 56 le ordinanze di custodia cautelare. Tra i destinatari dell'ordinanza, diciamolo subito, tra i destinatari dell'ordinanza di arresto c'è Silvio Scaglia, fondatore ed ex amministratore delegato di Fastweb, attualmente ricercato. Le indagini hanno accertato come i capitali illegali riciclati attraverso un sofisticato circuito internazionale finanziario e bancario provenissero da una serie di operazioni commerciali fittizie di acquisto e vendita di servizi di interconnessione telefonica internazionale. Tali operazioni venivano realizzate con la compiacenza di alti funzionari e amministratori di Fastweb e Telecom Italia Sparkle, controllata di Telecom. I principali organizzatori di questo riciclaggio hanno anche aspirazioni politiche. Tra le persone coinvolte nell'associazione a delinquere c'è il senatore del PDL Di Girolamo. Per il momento da Roma è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Di Michele, il senatore Nicola Di Girolamo, dunque eletto all'estero. C'è ancora il tema della corruzione in primo piano e se ne è parlato oggi alla Luis. La corruzione colpa della politica, è la convinzione del presidente della Fiat e dell'Università Luis di Roma. Parla Luca Cordero di Montezemolo all'inaugurazione della School of Government, una scuola per la formazione della futura classe dirigente. La lotta alla corruzione, dice Montezemolo, è un'impresa titanica che richiederà sforzi enormi e grande lungimiranza. Soluzione a questo problema sono le riforme, compito della politica, compito purtroppo mancato. Alla politica diamo una responsabilità, quella di non aver introdotto riforme adeguate per far funzionare bene la macchina dello Stato. E dove lo Stato non funziona si afferma inevitabilmente quella società fai da te dove ognuno si sente autorizzato ad arrangiarsi come meglio può e quindi anche attraverso strade non corrette. E anche il presidente di Confindustria Marcegaglia chiede alla politica più coraggio per le riforme. Noi imprenditori possiamo fare la nostra parte nel rispetto delle regole e nella lotta alla criminalità organizzata, ma la politica e le istituzioni facciano la propria. Noi auspichiamo davvero che dopo le regionali le forze politiche di maggioranza e di opposizione si mettano insieme e trovino veramente la forza, il coraggio di fare le grandi riforme dell'amministrazione pubblica, della capacità decisionale molto limitata che ha il nostro Parlamento, il nostro governo. Presente anche il capo dello Stato Napolitano che sulla corruzione risponde così. Sulla corruzione chiedete ad altri. Alessandra Schepisi, GR24 e Sole 24 ore, Roma. E ci sono varie reazioni, soprattutto alle parole di Montezemolo, iniziando da quella del ministro Brunetta, ce le riferisce in diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì Simone, sul fronte politico diciamo che la discussione è sul disegno di legge contro la corruzione che verrà integrato con altre due parti e ripresentato al prossimo Consiglio dei Ministri, questo secondo Renato Brunetta, Ministro della Pubblica Istruzione. Le due parti nuove riguardano la reintroduzione dei controlli sugli atti degli enti locali ed una parte riguardante la trasparenza, i piani di integrità, gli appalti. Per Brunetta non basta l'inasprimento delle pene, occorrono anche azioni di tipo preventivo. L'opposizione invece è scettica. Pierluigi Bersani, segretario PD, crede poco alle prossime norme. Se non ci fossero stati provvedimenti sul processo breve, sul legittimo impedimento e sulla protezione civile, insomma, se il Parlamento di più, dice Bersani, avremmo già il disegno di legge anticorruzione. Per Antonio Di Pietro e DV si faccia subito un decreto in tempo utile per le regionali, così non saranno candidati i condannati, altrimenti è solo fumo. E per il momento qui da Roma è tutto, a te studio. Grazie Elisabetta Fiorito. E si diceva della reazione di Brunetta alle parole di Montezemolo. Dice: Montezemolo è una persona che stima, è molto impegnato a lavorare su Fiat e magari non è stato informato sulla mia riforma della pubblica amministrazione. È proprio di questo che ci occupiamo adesso, perché l'organismo preposto a prevenire la corruzione è il SAET, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza, che opera presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. È stato istituito nel 2008 in sostituzione dell'Alto Commissario per la Prevenzione e il Contrasto della corruzione, che faceva capo invece al Ministero dell'Interno. Ma quali attività compie il SAET? Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto al capo Dipartimento della Funzione Pubblica, Antonio Naddeo. Una delle attività principali che è stata fatta dal SAET in relazione anche alle attività fatte dal Ministro Brunetta è stato quello, per esempio, della trasparenza, cioè attraverso la pubblicazione su internet, per esempio, di tutte le procedure di acquisto all'interno di una pubblica amministrazione, chi ha partecipato alla gara, se c'è stata una trattativa privata, quali sono le ditte che hanno vinto. Al di là delle norme, ci sono delle pratiche anticorruzione operative, di controllo, di verifica incrociata, ad esempio per gli appalti? Noi non è che facciamo attività di indagine, perché l'attività di indagine poi è rimessa alle forze di polizia, ai carabinieri, ai guardia di finanza. Noi abbiamo l'obiettivo di prevenire la corruzione. Sugli appalti stiamo lavorando appunto sul disegno di legge che deve andare al prossimo Consiglio dei Ministri, ci saranno delle misure. Recentemente la Corte dei Conti ha lanciato l'allarme, ha parlato di una corruzione in aumento nel 2009, dalla vostra mappatura risultava invece in calo. Come mai? C'è stata una visione diversa da parte della Corte dei Conti rispetto alla nostra, ma stiamo lavorando insieme. Anche oggi stiamo cercando di lavorare simultaneamente per inserire nei provvedimenti di legge delle norme che cercano proprio di estirpare, usando le parole della Corte dei Conti, questo tumore nell'ambito della pubblica amministrazione. Quando uno fa una legge che dice che bisogna pubblicare questo e quest'altro e non viene fatto, e questo è per la trasparenza, poi nel tempo si sono persi i controlli, soprattutto anche per le modifiche costituzionali di seguito, sull'operato delle amministrazioni locali, e secondo me quando c'è un controllo stretto da parte di un terzo è molto più semplice evitare dei fenomeni di corruzione. E a proposito di corruzione, c'è una vicenda che vi abbiamo raccontato ieri e questa mattina nei nostri giornali radio e che riguarda gli arresti avvenuti a Trezzano sul Naviglio, una vicenda di tangenti collegata all'Andrangheta. Oggi abbiamo inviato il nostro Stefano Totoro a Trezzano sul Naviglio e siamo nel milanese. Stefano, che cosa ci puoi raccontare? Sì, buongiorno Simone, se paragonassimo la corruzione ad una catena di franchising potremmo dire che una piccola filiale era stata aperta anche qui a Trezzano sul Naviglio, piccolo comune dell'Interland milanese. Ieri sono state arrestate 4 persone, 2 imprenditori, Alfredo Iorio e Andrea Madaffari, a capo di un gruppo immobiliare sospeso poche settimane fa dall'attività economica per aver agevolato la cosca di 'Ndrangheta, Barbaro Papalia. E poi 2 politici, Tiziano Butturini, sindaco del Partito Comunista fino al 93, adesso presidente di TASM e Amiacque, società privata a partecipazione pubblica. Il secondo politico è Michele Iannuzzi, consigliere comunale del PDL. L'accusa a carico dei politici che arriva dal pool antimafia di Milano è di essere letteralmente a libro paga degli imprenditori. Intercettazioni e bonifici bancari hanno evidenziato il sistema trasversale di corruzione che riguarda sostanzialmente delle lottizzazioni urbanistiche. La vicenda si complica un po' perché l'ex sindaco Butturini è il marito dell'attuale sindaco Liana Scundi del Partito Democratico. Lei è indagata e gli investigatori dovranno appurare se Butturini pretendeva denaro a nome della moglie di sua iniziativa o con l'avallo della consorte. Fatto sta che l'attuale sindaco ha dovuto rinunciare alla candidatura per le prossime comunali proprio perché indagata, e questo è un ulteriore terremoto politico a Trezzano, un comune commissariato 3 volte negli ultimi 15 anni. Per il momento è tutto, a voi. E grazie Stefano Totoro. Dopo quest'ampia pagina dedicata ai temi della corruzione e del riciclaggio, restiamo a Milano ma per parlare d'arte, perché si apre domani a Palazzo Reale e sarà allestita fino al 6 giugno la mostra Schiele e il suo tempo, curata da Franz Smola, conservatore del Leopold Museum di Vienna, dove ha sede la raccolta più importante del grande maestro austriaco. L'esposizione presenta 82 opere, di cui 35 tra i dipinti e lavori su carta più significativi, scusate, di Egon Schiele. Sentiamo l'intervista a Franz Smola di Adriana Fracchia. La mostra dà una buona idea dell'arte prima della guerra mondiale, prima. Vuol dire che si comincia nella mostra con il famosissimo pittore Gustav Klimt. Poi abbiamo certamente i quadri di Egon Schiele. Egon Schiele è il eroe del Leopold Museum. Il Leopold Museum possiede la collezione più grande nel mondo di Egon Schiele. Era importante anche per noi di dare una buona impressione a Milano per il pubblico italiano del Leopold Museum. E per questo abbiamo mandato i più importanti capolavori di Egon Schiele al Leopold Museum. Per esempio l'autoritratto che si trova nel manifesto, nel catalogo, era anche uno dei quadri più grandi di Egon Schiele, che sono gli Eremiti, un dipinto mistica molto importante anche per la carriera di Egon Schiele. E si deve sapere che è molto difficile di far mostrare le carte perché sono fragili, per questo è un momento raro per vedere questa opera su carta. In chiusura di questa prima parte del giornale radio, ritorniamo a Sanremo e ci occupiamo delle grandi polemiche sul televoto. A questo era dedicato oggi il nostro sondaggio. Pare sia andata così a Sanremo. Ha vinto Scanu, ma fino a pochi minuti prima della proclamazione era in testa il trio più apprezzato o fischiato d'Italia: Pupo, Emanuele Filiberto e Canonici. Dirigenti Rai nel panico, del tipo come facciamo ad annunciare la loro vittoria, scoppia il putiferio. Poi ecco una provvidenziale valanga di voti in extremis per l'ex pupillo di Amici che vince. Nell'occhio del ciclone è il televoto, quel sistema che permette di eleggere da casa con un SMS il proprio cantante preferito e che l'86% dei nostri ascoltatori vorrebbe abolire. Ma per Mara Maionchi, discografica e giudice di X Factor, le contestazioni e Sanremo sono sempre andati a braccetto. Però le discussioni su Sanremo, sulle finali e sulle votazioni ci sono sempre stati, per cui credo che forse di democratico ci sia stato sempre abbastanza poco. Bianco o Nero torna domattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Sono le 13 e 17 minuti nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato della maxi operazione antiriciclaggio con 56 arresti, 2 miliardi di euro. È stato disposto l'arresto anche per l'ex amministratore delegato e fondatore di Fastweb, Silvio Scaglia. Abbiamo parlato di corruzione che, dice Luca Cordero di Montezemolo, si combatte con le riforme. C'è una replica abbastanza dura di Brunetta che dice in realtà queste riforme le abbiamo già fatte. Poi vi abbiamo parlato di Trezzano sul Naviglio con l'inchiesta che prosegue sugli arresti per tangenti, quindi siamo sempre in tema di corruzione. Vi abbiamo raccontato di una mostra e siamo tornati sul televoto di Sanremo. Adesso andiamo all'estero e ci occupiamo di Turchia. Ci occupiamo di Turchia con quello che viene definito un tentato golpe. In studio con noi c'è Vittorio Darold, spesso inviato del Sole 24 Ore in Turchia e comunque esperto della zona. Buonasera, buongiorno Vittorio. Innanzitutto cerchiamo di stabilire che cosa esattamente è successo ieri. Sì, buongiorno a voi. Il premier Recep Tayyip Erdogan da Madrid ha annunciato appunto l'arresto di 40 militari con l'accusa di tentato golpe che sarebbe appunto localizzato nel 2003. Quindi ci sono però molti dubbi su questa ennesima rivelazione del premier, che è al governo con una formazione filo-islamica, perché dopo 2 anni di inchiesta sul cosiddetto caso Ergenekon, il gruppo clandestino che nel 2007 venne portato alla luce, ci sono stati 300 arresti, di cui molti militari, giornalisti, accademici, rettori di università, ma molti sono stati liberati. Le accuse sembrano basarsi più su fotocopie di piani e quindi ci sono molte perplessità che in realtà si tratti di una battaglia tra laici e appunto islamici. Ecco, il tema sembra essere proprio questo, Vittorio, perché da contraltare a Erdogan, il contraltare a Erdogan lo hanno sempre fatto i militari, e sono proprio i militari quelli maggiormente coinvolti in questa nuova ondata di arresti. Sì, esattamente, cioè la situazione politica turca vede un partito, il CHP, che è un partito erede del, di Atatürk, quindi del secolarismo, della laicità del, dello Stato, del, del fondatore della Turchia moderna, ma è un partito che è in grave difficoltà perché ripete in qualche modo vecchi stereotipi, insomma è ancorato a una storia che ormai non esiste più. Quindi i veri baluardi della laicità del paese che tengono ancorato, ricordiamo, la Turchia nella NATO, appunto nel Medio Oriente, questo bastione della NATO nel Medio Oriente, è appunto l'esercito turco, che è un po' appunto il baluardo del secolarismo. Questo è scritto nella Costituzione turca, e la magistratura, soprattutto negli organi, diciamo, del cosiddetto Consiglio Superiore della Magistratura. Va notato che la settimana scorsa c'è stato l'arresto di un magistrato che era da 3 anni sulle tracce dei cosiddette confraternite islamiche. Una strana ramificazione che il magistrato appunto voleva indagare per verificare se i fondi, invece di andare appunto in opere di beneficenza, non avessero preso altre vie, e lui appunto presupponeva vie vicine al partito, appunto al governo, che poi a sua volta finanziava l'acquisizione di giornali per appunto essere vicini appunto alla forza di governo HP. Quindi grandissimi dubbi su questo presunto colpo, e grazie nel frattempo a Vittorio Darold, esperto di Turchia del Sole 24 Ore. Noi passiamo a parlare di Iran. Se Israele dovesse lanciare una nuova guerra contro un paese vicino, dopo quelle contro Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza, dovrà essere sradicato. Le parole sono del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, che ha detto oggi di aver rivolto questa richiesta ad alcuni paesi arabi vicini ad Israele. Ma oggi l'Iran è intervenuto anche sull'Italia. Quando l'Italia insiste che vengano adottate sanzioni contro il nucleare iraniano, mostra di essere sotto l'influenza della propaganda di altri paesi. Lo ha detto oggi il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi all'influenza degli Stati Uniti. Nella consueta conferenza stampa settimanale, il portavoce della diplomazia iraniana ha poi accusato Washington di sostenere il gruppo separatista sunnita Jundullah, operativo nel sud-est dell'Iran, colpevole di diversi attentati, considerato da Teheran un gruppo terrorista che ha calpestato tutti i valori umanitari per creare disordine. E proprio oggi è stato arrestato Abdulmalek Righi, il leader del gruppo separatista sunnita. Secondo il Ministero iraniano dell'intelligence, 24 ore prima di essere fermato si trovava in una base americana in Afghanistan, poi è salito su un aereo che dal Pakistan andava verso un paese arabo. L'aereo è stato intercettato dall'aviazione iraniana mentre sorvolava le acque del Golfo e costretto ad atterrare in Iran, un'operazione di cui Pazdaran andranno fieri. Farian Sabahi, GR24, Sole 24 Ore. Altro fronte di tensione internazionale, quello tra Cina e Stati Uniti, Cina che torna ad attaccare l'America per la visita del Dalai Lama. Nuova bordata dalla Cina contro gli Stati Uniti in seguito all'incontro tra Barack Obama e il Dalai Lama avvenuto la settimana scorsa. Chiediamo agli USA di riparare ai danni causati dall'incontro e misure concrete per sostenere uno sviluppo sano delle relazioni sino-americane, ha dichiarato oggi il portavoce del Ministero degli Esteri Ching Gang durante un incontro con la stampa straniera. Le proteste del dragone a qualsiasi viaggio all'estero del Dalai Lama, dipinto come un lupo travestito da monaco che punta a separare il Tibet dalla Cina, sono quasi una routine, ma giungono in un periodo particolarmente teso del rapporto tra Cina e America, dopo mesi contrassegnati dal caso Google e dalla vendita di armi americane all'isola di Taiwan. Ma quella in corso tra il dragone e l'aquila è anche una partita economica. Se infatti da un lato gli Stati Uniti continuano a premere per un apprezzamento dello yuan, la Cina, da mesi, ha diminuito sensibilmente gli acquisti di debito pubblico americano. Antonio Italia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Ieri l'inizio dello sciopero Lufthansa, che al momento è sospeso, oggi quello dei controllori di volo francesi. In questi giorni volare in Europa è un'impresa decisamente ardua. Dopo il caos causato ieri in Germania dallo sciopero dei piloti della Lufthansa, oggi è infatti la Francia a dover fare i conti con i disagi negli aeroporti. Così la staffetta della protesta passa dai piloti tedeschi che hanno sospeso lo sciopero ai controllori di volo francesi che hanno deciso di incrociare le braccia sino a venerdì prossimo. E per ora gli scali parigini fanno registrare i disagi più importanti. A Orly è stato cancellato un volo su 2, mentre a Charles de Gaulle le cose vanno un po' meglio. A terra è rimasto solo un volo su 4. A Lione invece sinora sono stati cancellati una 30ina di voli. e alla base di questa protesta c'è il progetto europeo che prevede di accorpare il controllo aereo francese a quello di Germania, Svizzera e Benelux. Un progetto che, stando ai sindacati, porterà di certo a un taglio netto degli uomini radar. Igor Fiatti, GR24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E ora vi raccontiamo una storia. Sono di nuovo con la madre Leonardo e Nicolò, i due bambini contesi tra Italia e Germania. La madre vive a Milano, se li è ripresi, ora è nascosta in Polonia. La signora Marinella Colombo, appunto, se rientra in Germania rischia 5 anni di carcere. Lo Jugendamt, l'istituto che gestisce servizi sociali e affidi dei minori, aveva dato l'affidamento dei due bambini al padre tedesco. Sentiamo. Marinella Colombo non vedeva i suoi bambini Nicolò e Leonardo di 8 e 11 anni da 9 mesi. Dice che di loro non avesse più notizie. Il padre tedesco, invece, dice il contrario. Lo Jugendamt aggiunge che per legge l'istituto comunica ai genitori lontani lo stato dei figli. Dunque, la storia è questa. Marinella, sposata con Tobias, vive a Monaco. Nel 2006 i due si separano. Lo Jugendamt dà i bambini in affido al padre. Marinella se li porta però via a Milano. A maggio dell'anno scorso i carabinieri li prendono da scuola e li riconsegnano al padre, che li riporta a Monaco. Lunedì Marinella entra in Germania rischiando 5 anni di carcere. Si mette davanti alla scuola dei bambini a Monaco. I tre si vedono, si abbracciano e scappano via. Dicono che si trovino ora in Polonia, dove hanno incontrato Marcin Libizzi, l'ex presidente del Parlamento europeo, ma soprattutto politico che da anni denuncia lo Jugendamt, che lui definisce unica organizzazione in Europa a difendere gli interessi tedeschi contro quelli dei cittadini stranieri. Marinella è nascosta coi suoi bambini. Noi proviamo a contattarla e finiamo per parlare con una sua cara amica e con un suo avvocato, che ci dicono che portare via i bambini al padre era l'unico modo. Ma era davvero l'unico modo? Abbiamo provato a parlare con lo Jugendamt. Se però volete parlare con Frau Otto, la direttrice dello Jugendamt di Berlino, dovete mettere in conto di stare al telefono 2 ore e parlare in inglese con impiegati che non sanno parlare inglese. Alla fine potrete parlare con Frau Otto, che però purtroppo non avrà elementi sufficienti per poter entrare nel caso specifico di Marinella Colombo. Cristina Carpinelli, GR24. Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura adesso e parliamo di sport. Fa discutere l'Italia il gesto delle manette di Mourinho, fa discutere l'Italia del calcio naturalmente, e i 3 giorni di squalifica che l'allenatore dell'Inter si è beccato. Un'opinione contro e un'opinione pro. Iniziamo dal contro, Dario Ceccarelli. Mourinho può essere tante cose, ma vittima no. È ricco come un faraone, guida una corazzata calcistica finanziata dal presidente più munifico del mondo. Ogni sua parola è ripresa da tutti i media, che neppure Berlusconi gli fa un baffo. Se poi entriamo nel merito, cioè la protesta per le espulsioni, l'arbitro aveva ragione. Erano 2 falli da espulsione. Di isterici che si credono padre eterni, in Italia ne abbiamo già abbastanza. E se Mourinho fa la scimmia, è chiaro che poi sugli spalti si fa gli scimmioni. Va bene che i modelli positivi non sono più di moda, ma non lamentiamoci se qualche migliaio di ultrà sono padroni degli stadi. Le manette vanno messe a loro. Al capopopolo Mourinho una bella scarica di pernacchie. E ora il pro, Giovanni Capuano. Lotito, Mezza Roma, Cosmi, Spinelli, tutti contro il sistema, tutti domenica pomeriggio, meno di 24 ore dopo le manette di Mourinho, tutti assolti, anzi nemmeno processati, perché il calcio italiano si è scoperto indignato per gli attacchi alla sua classe dirigente, ma solo un po'. Dire che c'è un disegno per far retrocedere il Livorno o la Lazio si può eccedere nelle proteste in una serata storta, no. Ecco perché la stangata a Mourinho assomiglia a un avvertimento all'Inter. Si liberi di lui, del grande cattivo che non sopporta il nostro calcio e ne è evidentemente ricambiato. Meglio aver lontano con le sue provocazioni e anche con le sue esagerazioni, e che non si dica troppo in giro che le manette negli stadi italiani, metaforicamente e non, sono già entrate un paio di volte, senza per questo che ce le avesse portate Mourinho. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Becchesi e con in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.